Steve a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Buongiorno e bentornati alla finestra sul cortile. Bene, coraggio, ci siamo quasi, mancano poco più di due giorni alla svolta che tutto il mondo aspetta e speriamo che alle aspettative non segua la delusione. Proprio martedì giura il primo presidente nero della storia degli Stati Uniti. Cosa significa questo avvenimento per il futuro della comunità afroamericana? Guadagnerà potere e visibilità sul piano sociale e culturale? Assisteremo a un rinascimento nero nelle arti, nel cinema, nella musica e nella letteratura? È quello che si domandano in America in questi giorni, tra le tante altre domande, ovviamente, che pone la presidenza Obama, che sta per cominciare. Di questi temi parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma intanto ascoltiamo che cosa prevede il sommario di oggi. Germania, propaganda nazista, ma a fin di bene. Le testate del Reich tornano in edicola con il commento degli storici per ricordare e capire. Hollywood, il cinema nero è in crisi? A parte Spike Lee, pochi registi afroamericani hanno successo. Giappone, la dura disciplina zen raccontata in un bestseller finalmente tradotto in inglese. Francia, salvare i finanzieri dal suicidio. È questo lo scopo di un nuovo gioco per l'iPhone. Stati Uniti, troppi disoccupati? Surgeliamoli, aspettando tempi migliori. Questo è il suggerimento di un giornalista al presidente Roosevelt durante la Grande Depressione. India, tutti pazzi per il bacio sulla guancia, ma ai tradizionalisti non piace. Blood, Sweat and Tears of Zen. Sangue, sudore e lacrime dello Zen è il titolo di un articolo di Donald Ricci sul Japan Times, che già fin dalle prime battute ci sorprende, perché noi siamo abituati a pensare allo Zen come a una tecnica e a una disciplina di meditazione che certamente non comporta né lacrime né sudore né tantomeno sangue, ma semplicemente un percorso interiore che porta alla serenità e all'equilibrio. In questo articolo invece Donald Ricci ci svela i contenuti di un libro di Kaoru Nonomura, un giornalista giapponese, che ora è stato tradotto in inglese e che è il racconto della sua esperienza in un tempio della disciplina Zen che pratica quella che si chiama Leiheiji, cioè una forma di disciplina, di percorso iniziatico che è estremamente duro. E scrive Nonomura in questo libro che il pensare di entrare in uno di questi campi, di questi monasteri, con quelle pie illusioni, quelle false aspettative che sono legate un po' alla nostra concezione, alla nostra visione dello Zen, dice, ci espone a molte delusioni, tant'è vero che molti poi abbandonano queste esperienze prima di finirle. Lo Heiheiji è una società completamente gerarchica, fissa e immutabile, ha una forma piramidale, dove proprio in basso, nello strato inferiore, ci sono i novizi e gli allievi anziani che li istruiscono. Al vertice della piramide c'è il direttore, che ha una giurisdizione su tutti i membri della comunità.

si ripropone un articolo pubblicato dallo stesso mensile nel luglio del 36, in piena Grande Depressione, e che era un articolo abbastanza curioso e anche così un po' ironico di questo Lawrence Garrett, che proponeva di congelare i disoccupati e di tenerli in freezer fino a quando la crisi fosse superata. A quel tempo a fare dello spirito sulle tragedie collettive erano i giornalisti in vena di humor nero. I politici invece pensavano a trovare dei rimedi seri. Oggi spesso purtroppo accade il contrario. La finestra sul cortile. 10 anni fa Spike Lee, il grande regista nero americano, aveva dichiarato al New York Times che era un momento di straordinaria opportunità per i produttori e i registi afroamericani. 10 anni dopo, scrive Gene Seymour sull'Herald Tribune, sta subentrando invece una delusione profonda proprio nella comunità afroamericana del cinema, perché queste promesse che sembravano schiudersi allora hanno così sono in gran parte sfumate. Di fatto, scrive Gene Seymour, i registi di successo afroamericani si possono contare sulle dita di una mano, addirittura su due dita. Uno è per l'appunto Lee, che ha appena avuto un grande successo e anche ha suscitato molte polemiche con il suo Miracolo a Sant'Anna, e l'altro è meno noto in Italia, è Tyler Perry, imperatore dei media basato ad Atlanta, che ha creato per esempio una commedia, una sitcom per la TV che dovrebbe iniziare il 20 febbraio e che è intitolato Medea Goes to Jail, Medea va in galera. I produttori americani di cinema sostengono che i film, cosiddetti i film black, sono un prodotto di nicchia, che in realtà molto spesso non hanno quel successo di massa che uno si potrebbe aspettare. Ma probabilmente ormai è superata anche l'era del black oriented product, come viene definito in America, perché ormai gli attori neri come Denzel Washington o Cuba Gooding o Will Smith sono ormai protagonisti o hanno dei ruoli importanti nel cinema in generale, quindi non c'è più una specificità del cinema nero. Ma per parlare di questi temi abbiamo in linea un ospite che salutiamo. Buongiorno, Roberto Escobar. Buongiorno. Critico cinematografico del Sole 24 Ore, e quindi ci daremo del tu, è inutile fingere, visto che ci sentiamo tutte le settimane per il nostro domenicale. Roberto, ma tu come vedi questa analisi del Seymour sull'Herald Tribune? Perché in effetti sulla scena americana abbiamo dei grandi scrittori neri, soprattutto grandi scrittrici, pensiamo a Toni Morrison o Alice Walker. Abbiamo delle grandi protagoniste della televisione come Oprah Winfrey, che tra l'altro è stata appoggiato l'elezione di Obama, ma invece in campo cinematografico non ci sono dei grandi registi a parte Spike Lee, no? Anche a livello internazionale. Si direbbe che Spike Lee non abbia fatto scuola, ecco. Sì, è vero, bisognerebbe ricordare che negli anni 90 almeno un paio, due o tre registi neri hanno fatto ben sperare, c'era per esempio John Singleton con Boys in the Hood, poi questo Singleton ha continuato a produrre e a girare anche finché abbiamo visto, però il suo livello è sceso. C'era poi stato Carl Franklin, sì, che aveva nel 92 girato un bel noir, anche una donna. One False Move, mi pare, no? Sì, sì. Esatto, sì. Mm-hmm. Comunque il titolo italiano era Qualcuno sta per morire. Sì. Poi c'era una donna, Martin, Dana Martin, che aveva addirittura girato per una major, quindi c'era qualcosa che lasciava intuire uno sviluppo più evidente. Non è successo. Io Questo è vero, noi siamo italiani, quante volte abbiamo visto la rinascita annunciata del cinema italiano e poi non è successo, quindi non Beh, abbiamo appena avuto una delusione con Gomorra, insomma, poi magari, magari ne parliamo. Va bene, però è successo qualche cos'altro che io vorrei paragonare, se posso, a un mio ricordo di quando ero bambino. A parte Prego. Film che conoscono tutti, Via col vento, certo. Io la figura di Mami, sì. Esatto, io da bambino vedevo un telefilm americano, ovviamente, il cui titolo mi sembra fosse Mio padre, signor preside, dove c'era un nero, si chiamava Willy, in italiano doppiato come c'è da vergognarsi, che parlava col bong, che come però tipo... evidentemente anche in originale era considerato in maniera molto, diciamo, molto tenera, ma come un essere inferiore. Certo. Se noi oggi invece vediamo i film americani, quelli della grande produzione, intanto ci sono dei grandi attori, oltre a quelli che tu hai nominato, ricorderei Hal Berry, Eddie Murphy, Morgan Freeman. Eddie Murphy, ma, certo, anche comici, insomma, che, anche esatto, questa comicità nera che è straordinaria. Freeman, che ha fatto grandissimi film, ha lavorato con Eastwood, insomma, oltre a questi... che danno il livello dell'attore e dell'attrice americani, lo spettatore italiano osserva con stupore, o dovrebbe osservare con stupore, come la presenza di personaggi primari e secondari neri sia aumentata moltissimo. Cioè, sembra che il cinema riproduca la realtà vera, nelle sue percentuali etniche, insomma. Sì, di questo melting pot, insomma, in cui anche i neri, insomma, poi nella mobilità sociale americana hanno raggiunto. Interessante è che sono indicati non in quanto neri, ma in quanto cittadini americani. Non c'è quindi dubbio. C'è una parità totale, quindi questo credo sia un'ottima cosa. Poi i grandi registi vengono quando vengono, non è detto che debbano sempre venire. È chiaro. No, ecco, diciamo che appunto tu hai già richiamato la figura ancillare rassicurante, no, della cameriera di Rossella O'Hara in Via col vento, no? Questa figura che però appunto apparteneva quasi ad un mondo, non diciamo subumano, ma insomma certo, trattato insomma in modo paternalistico, no? Come un essere comunque socialmente inferiore, se non biologicamente, almeno socialmente. Ecco, poi in seguito però abbiamo visto invece la figura del nero come protagonista di film di impegno civile, no? Pensiamo a Indovina chi viene a cena, Il buio oltre la siepe, no? Sidney Poitier, mi ricordo la mia... Io distinguerei tra i due film, tra i due, quello ampiamente più bello è Il buio oltre la siepe, ma è anche... Gregory Peck. Certo, un grandissimo film da un grandissimo romanzo. Io direi che il nero nel buio oltre la siepe è davvero un individuo a parità di altri individui, descritto con una dignità grandissima. Avrei più dubbi sul Indovina che viene a cena, che in fondo è Volemos e bene. Sì. No? Però certamente anche lì il nero figura in quanto individuo, quindi c'è già un passo avanti. Però chi davvero ha portato nel cinema e nell'immaginario anche nostro di europei il nero è sicuramente Spike Lee, il cui cinema ha a un certo punto assunto questo impegno, costruire una mitologia, tra parentesi, cinematografica nera, così come esiste una mitologia bianca. Certo. Faccio un esempio, nel western tradizionale non c'è mai un nero, eppure noi sappiamo... ci sono i peli rossi. ma noi sappiamo che i cowboys erano prevalentemente neri, cioè erano i poveri. E difatti c'è un film brutto, peraltro del 93, di Van Peebles, Posse, credo che si titolasse, che cercava di imporre un modello western nero. Il film era brutto, purtroppo. Ecco, ma ritornando a Spike Lee, il suo film su Sant'Anna di Stazzema è stato molto criticato, in particolare dall'AMPI, diciamo dagli eredi della tradizione resistenziale in Italia. Adesso c'è uno storico, Paolo Pezzino, che ha scritto un saggio proprio sulla strage di Sant'Anna di Stazzema e dice che dopo tutto aveva ragione Spike Lee. Ma perché discutiamo poi di un film che è comunque fiction, insomma, non andrebbe visto come tale, non come un documento storico? Io ho molte remore a sottoscrivere interventi, diciamo, storiografici che abbiano come causa, come punto di partenza un film. C'è gente che probabilmente ne approfitta per farci ascoltare, insomma. Quello che è certo è che il film di Spike Lee è dichiaratamente in quel particolare di fantasia. Certo. Dichiaratamente. Tant'è vero che poi con Lampi credo che tutto sia rientrato. E ho questo sospetto, se mi consenti, che lo scandalo, tra virgolette, sia stato montato a scopi pubblicitari. Può darsi. Come spesso si fa. Vedendo il film, francamente, non credo che la resistenza ne esca minimamente svilita. Ecco. No, affatto, affatto. Bene, noi ringraziamo Roberto Escobar, buona giornata e a risentirci presto. Grazie anche a voi. E adesso ci spostiamo in Germania, dove nelle edicole fanno la sua comparsa, udite, udite, dei giornali dell'epoca nazista. Ma non è propaganda, è tutto a fin di bene. L'editore inglese Peter McGee, scommettendo sull'interesse dei lettori tedeschi e incurante della crisi nelle vendite dei giornali, ha iniziato proprio in questi giorni la distribuzione nella Repubblica Federale di alcune copie dello Angriffe del Völkische Beobachter, testate nazionaliste e antisemite, originalmente pubblicate proprio ai tempi di Hitler. Ogni settimana si potranno acquistare 3 periodici dell'epoca in formato facsimile. Nessuna critica, ci segnala il nostro Alessandro Melazzini, si è sollevata finora contro il progetto, ma solo la speranza che il lettore non scordi, nello sfogliare la propaganda del regime, di dare anche un'occhiata al puntuale commento storico che l'accompagna. E adesso ci spostiamo in India, dove è di gran moda l'air kissing, che è quell'usanza tipicamente occidentale di baciarsi sulle guance quando ci si incontra, in realtà fingendo semplicemente un bacio, accostando semplicemente le gote e le orecchie alla persona che si incontra. Nel film di Madhur Bhandarkar, Page 3, c'è una scena in cui due autisti discutono del fatto che i loro padroni, ogni volta che si incontrano a un party, fanno proprio questo cerimoniale, e uno dei due autisti dice: l'air kissing è la norma nell'alta società indiana. Scrive Pail Kapadia su Outlook India che l'air kissing è indiano come una bottiglia di Moet Chandon o il bikini, ma non sei in se non lo fai. E per oggi è tutto, ringrazio Laura Marchesi, Daniele Casagrande, Vittoria Mussini in redazione, Fabio Cantadori in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi dà appuntamento a sabato prossimo, buon weekend a tutti.